Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Allora, a prescindere da come stanno andando i mercati, che da qualche tempo presentano sbalzi di umore che hanno reso più prudenti verso la borsa molti investitori, anche se la crisi degli ultimi anni ha messo in discussione tutti quelli che sono stati definiti prodotti derivati dall'architettura finanziaria un po' complicata, ci sono dei segmenti di mercato ai quali possono accedere anche i piccoli risparmiatori che hanno mantenuto un discreto interesse e una certa vitalità, tanto da portare molte banche a continuare ad emettere questi prodotti che continuano ad essere collocati ampiamente fra i piccoli risparmiatori. C'è anche chi è attratto da queste alternative di investimento ma non sa bene dove informarsi, da che parte cominciare. Allora noi oggi a Salva Danaio abbiamo deciso, come una delle ultime puntate prima della pausa natalizia dedicate appunto agli strumenti di investimento particolari, di dedicare la nostra trasmissione ai cosiddetti certificati, ai certificates, al SEDEX, che è il segmento di borsa italiana, il mercato di borsa italiana dedicato proprio alla negoziazione di questi strumenti di investimento, certificati ma anche covered warrant. Tra l'altro, siccome per come sono strutturati questi prodotti sembrano molto simili, addirittura quasi identici come per esempio agli ETF, perché sono degli strumenti di investimento che replicano dei sottostanti, noi oggi abbiamo pensato appunto di organizzare questa trasmissione anche per spiegarvi le differenze che ci sono e cercheremo, speriamo, di capirle in termini semplici. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà come sempre l'opportunità di intervenire in diretta, di farci le vostre domande su questo argomento, e stamattina ci confronteremo con Pietro Poletto, Borsa Italiana responsabile del mercato obbligazionario. Buona giornata. Buongiorno a voi. Grazie di essere ritornato a Salva Danaio, da un po' che non sentiamo il dottor Poletto, e ringrazio invece per essere intervenuto per la prima volta Paolo Dal Negro, lavora appunto per l'ambito prodotti quotati Italia di Unicredit Corporate Investment Banking, che è la divisione del gruppo Unicredit che si occupa proprio di certificati. Ho detto tutto correttamente? Sì, un buongiorno a tutti. Grazie anche a lei di essere con noi, vi ho ricordato il numero verde per le vostre domande, naturalmente ci potete anche scrivere al 349-238-6666. La borsa questa mattina, dopo le anticipazioni del giornale radio, vi ribadisco che il quadro è tornato ad essere negativo su tutte le piazze europee dopo essere già stato negativo ieri. Parigi sta perdendo lo 0,24%, Francoforte meno 0,08%, adesso Londra meno 0,03% e Milano meno 0,77% sul FTSE MIB. Naturalmente gli investitori attendono novità dal summit di Bruxelles dei capi dei paesi dell'Unione Europea, che oggi analizzeranno le misure da adottare per far fronte alla crisi. Peraltro c'è anche in calendario la riunione della Banca Centrale Europea, e in questo caso invece il mercato si attende chiarezza in merito alle indiscrezioni circolate circa un eventuale aumento di capitale dell'istituto di Francoforte. Milano oggi punta su Tenaris, più 1,15%, Campari in rialzo di un punto, Bulgari più 0,68%, Snameret Gas più 0,40%, Exor più 0,35%, vendite invece di nuovo a piene mani sul settore bancario ed assicurativo. Oggi a trainare al ribasso il listino generali, che perde il 3%, i titoli oggi stanno affrontando le indiscrezioni che sono apparse stamattina su un quotidiano, sul Messaggero, che ha indicato che l'utile di fine anno del Leone di Trieste dovrebbe essere circa 1,6 miliardi di euro, mentre il consensus precedente era per un utile più alto. Il gruppo ha dovuto fare anche delle precisazioni relativamente a questa indiscrezione, ma gli investitori stanno preferendo appunto vendere il titolo. Fondiaria meno 2,78%, in calo anche Mediobanca meno 2,70%, presumibilmente trascinata giù da generali, e poi Popolare di Milano meno 2%, Monte dei Paschi meno 1,79%, Ubibanca meno 1,75%, Unipol meno 1,68%, Unicredit meno 53%, quindi insomma di nuovo giornata storta per il settore bancario, che ancora affronta anche le indicazioni fornite da Moody's di ieri sul debito spagnolo. Oggi ci sono altre aste e insomma ancora preoccupazione generale per il debito sovrano dell'Eurozona. Euro su dollaro a 1,3241, questa è la borsa di oggi. Noi invece oggi parliamo di particolari strumenti di investimento e approfondiremo la conoscenza dei certificati. Sono prodotti che permettono al risparmiatore di diversificare i propri investimenti in mercati difficilmente raggiungibili come indici settoriali e materie prime, o di adottare strategie alternative al singolo investimento in azioni o obbligazioni. Si tratta dei certificati, strumenti finanziari quotati sul mercato SEDEX che seguono l'andamento di attività finanziarie, materie prime o qualsiasi altro bene, replicandone di conseguenza il rendimento. Caratteristica quest'ultima comune agli ETF, con i quali i certificati condividono commissioni di gestione molto basse, comprese tra lo 0,1 e 0,4%, contro lo 0,5% e il 3% circa, che grava invece sul patrimonio dei fondi comuni. E se a favore dei certificati gioca il fatto di godere di un migliore trattamento fiscale, gli ETF hanno il pregio di non essere esposti al rischio emittente. Tornando ai certificati, ne esistono fondamentalmente di due tipi, con o senza effetto leva. I certificates senza effetto leva sono strumenti finanziari che replicano l'andamento di una particolare attività. In ogni istante il prezzo del certificate segue molto da vicino il prezzo dell'attività considerata, senza subire l'influenza di altre variabili. Con quelli dotati di leva, invece, si può scommettere sul rialzo o sul ribasso di una particolare attività, dunque si prestano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria. 800 24 00 24 è il numero verde per gli ascoltatori. Per le domande in diretta ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Sto notando fra gli ascoltatori che si stanno prenotando per intervenire in diretta che qualcuno ci chiede delle indicazioni specifiche su singoli prodotti. Allora noi potremmo anche provare a darvi delle indicazioni, ma non tanto per, come dire, ovviamente suggerimenti di investimento, perché sapete bene che questi non ne diamo mai e non ne possiamo dare. Al limite possiamo cercare di capire come è strutturato il prodotto e quindi darvi qualche indicazione sul suo funzionamento, sulla sua dinamica in relazione al mercato. Ovviamente non consigli specifici di investimento su un certificato di una determinata banca. Al limite Dal Negro può parlare per quelli di casa sua, Pietro Poletto può parlare appunto sulla dinamica del mercato, come vi dicevo, in termini generali, ma non su singoli prodotti. E comunque 800 24 00 24, il numero verde ve l'ho ancora ricordato. Cominciamo con Pietro Poletto, ricordando un po' la cronistoria di questo mercato dell'SEDEX, Poletto, che è nato nel 2004 e ha conosciuto in questi anni una crescita esponenziale. E peraltro, da quello che ho capito, per esempio nel 2008, l'anno più forte per quello che riguarda la crisi economico e finanziaria recente, anche se il peggiore in termini di economia reale è stato il 2009, ha registrato un vero e proprio successo di distribuzione fra i piccoli investitori di certificati a capitale protetto, garantito nell'anno proprio di crisi dei mercati. Ma in sostanza adesso come stanno andando le cose? È un mercato vitale e piace ai piccoli investitori? Ma sì, sicuramente un mercato vitale e anche ben evidenziato dalla presenza di continue emissioni e dall'arrivo di nuovi emittenti sul mercato, per cui viene considerato una piattaforma di distribuzione, di negoziazione di prodotti che sono efficienti per meglio affrontare le diverse turbulenze del mercato. Ovviamente nel corso degli anni il mercato è evoluto, diciamo che il SEDEX nasce nel 2004, ma i primi prodotti li abbiamo quotati nel 1998 con i primi cover warrant, per cui il mercato era nato come un mercato di cover warrant che poi si è trasformato in un mercato di derivati cartolarizzati con le prime quotazioni di certificati che possono essere a leva o di investimento, come è stato giustamente spiegato nell'introduzione. È ovvio che le turbolenze del mercato hanno impattato anche questi prodotti, ma la flessibilità con cui questi vengono emessi ha consentito ai principali emittenti di presentarsi sul mercato con prodotti che potevano meglio rispondere alle situazioni anche difficili che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Volevo fare una domanda a Paolo Dal Negro: perché questi strumenti di investimento, poi ribadisco, vi spiegheremo come funzionano, perché c'è un mercato primario, quindi c'è un collocamento, poi c'è quello secondario, si possono anche compravendere in una fase successiva al collocamento da parte degli emittenti, ma perché sono considerati degli strumenti di investimento adatti ad un medio periodo? Ma perché appunto sono delle soluzioni di investimento molto flessibili, molto diverse anche tra di loro, che consentono appunto di accedere al mercato azionario o per quanto riguarda ad esempio degli indici o su delle materie prime, ma anche su, ad esempio, su dei tassi di cambio, con un orizzonte temporale chiamiamolo non brevissimo periodo. Noi abbiamo parlato di covered warrant, logicamente i certificati sono delle soluzioni di investimento completamente differenti, in quanto permettono di andare a sfruttare la salita, la discesa con una protezione condizionata o incondizionata del capitale per andare appunto ad investire su degli asset come possono essere ad esempio le azioni, ma con delle caratteristiche differenti. Però sostanzialmente l'ottica di investimento, ad esempio azionaria, è sempre rispecchiata, e quindi i piccoli investitori, i cosiddetti investitori retail, possono avere la loro strategia di investimento che si basa sul loro orizzonte temporale, quindi possono decidere se sia con i certificati in collocamento, che poi verranno quotati su un mercato, sia con i certificati già quotati ad esempio sul mercato Sedex, possono appunto decidere in completa autonomia quanto rimanere nell'investimento, quando uscire e quando entrare. Quindi sostanzialmente vediamo che l'ottica è quella di un investimento a medio periodo, quindi andiamo a parlare di 12-24 mesi. I certificati hanno ora la tendenza è quella di quotare sempre più certificati senza una data di scadenza, proprio per non vincolare più l'investitore a una data di scadenza e renderli flessibili al massimo e adatti ad ogni orizzonte temporale che i diversi investitori possono avere, in quanto diversi investitori hanno diversi orizzonti temporali. Qualche cifra, Poletto, prima di andare alla prima pausa. Ho letto una statistica recente secondo la quale in febbraio in borsa italiana erano oltre 3.200 i prodotti quotati in questa area, oltre ai certificati anche i covered warrant. Adesso però è dicembre 2010, sono cresciuti ulteriormente. Quanti emittenti e quanti strumenti quotati? Diciamo che la numerosità dei prodotti quotati è confermata anche in questi ultimo mese dell'anno, per cui siamo diverse migliaia di prodotti quotati. In più abbiamo avuto anche l'arrivo di nuovi emittenti come Barclays, Credit Suisse, che hanno quotato dei nuovi prodotti all'interno del mercato, per cui si è ampliata ulteriormente la possibilità di scelta e di selezione per gli investitori. La cosa che mi preme sottolineare è che ovviamente questo è un mercato regolamentato, gestito da Borsa Italiana e controllato dall'autorità di vigilanza. Questo è molto importante, specialmente in una situazione dove abbiamo visto particolare turbolenza, il fatto di essere e di poter negoziare, investire i propri soldi in una struttura con tutte le garanzie del caso è sicuramente un valore aggiunto da sottolineare sempre. Benissimo, allora io adesso devo andare in pausa, abbiamo un po' di pubblicità, il meteo, e oggi particolarmente ci interessa sentire insomma quali sono le condizioni del tempo un po' in tutta Italia, dove nel centro sta ancora nevicando copiosamente. Poi cominceremo anche a sentire le vostre domande, ma ci sono ancora tante cose di cui parlare. Con Paolo Dal Negro abbiamo preparato anche un paio di esempi per farvi capire, in relazione appunto al tipo di sottostante che un certificato può avere, come possono funzionare questi prodotti, come possono far guadagnare l'investitore, ma come possono anche farlo ovviamente perdere, perché anche se sono a capitale protetto non è che siano strumenti senza rischio. Focalizziamo la nostra attenzione sui certificates e sui certificati per capire che dinamica hanno questi strumenti di investimento, a quale risparmiatore anche sono adatti e che differenza c'è tra questi prodotti e prodotti simili come gli ETF, perché entrambi replicano dei sottostanti, ma ovviamente se ce ne sono due diversi di prodotti evidentemente avranno anche una natura per certi versi differente. Allora noi questa mattina abbiamo interpellato due esperti del settore, Paolo Dal Negro, prodotti quotati Italia appunto di Unicredit Corporate e Investment Banking, che è la divisione del gruppo Unicredit che si occupa di certificati, e Pietro Poletto, Borsa Italiana, ma devo dire London Stock Exchange, Poletto? Diciamolo pure. Va bene, 800240024 è il numero verde per le domande degli ascoltatori. Allora, prima di andare alle altre domande ai nostri ospiti, direi di cominciare subito a sentire cosa ci stanno chiedendo appunto gli amici che ci seguono da casa, cominciando con Giorgio dalla provincia di Monza e Brianza. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giorgio. Volevo sapere, ero già a conoscenza degli ETF. Poi in un secondo momento mi hanno parlato degli ETC, che sì. si praticamente sono più propensi a investire sulle materie prime. Sì, molto propensi, sono proprio gli replicanti delle commodities, ci sta infatti per commodities. Adesso sento in macchina, stavo andando in macchina dei certificati. Volevo, siccome io sugli ETC è già un po' di tempo che ci penso, anche a proposito soprattutto sulle materie prime, volevo sapere la differenza tra questi tre investimenti. Grazie. Allora comincio intanto con Poletto, che come Borsa Italiana ci darà un po' di differenza. Poi, siccome con Dal Negro abbiamo fatto proprio un esempio, ci siamo inventati un certificato che investe sulla commodities per eccellenza, che potrebbe pensare qualcuno al petrolio, noi invece abbiamo pensato all'oro oggi, e quindi ci facciamo spiegare anche da questo punto di vista il funzionamento di un prodotto di questo tipo. Allora Poletto, la faccio salire in cattedra, le faccio fare il professore questa mattina. Che differenza c'è tra intanto un certificato e un ETF, poi magari vediamo anche l'ETC? Beh, intanto la differenza è molto semplice. L'ETF è un fondo, il certificato è un prodotto finanziario cartolarizzato, per cui questa è una differenza sostanziale. Relativamente alla differenza tra l'ETF e l'ETC, anche qui l'ETF, essendo un fondo, ha, in base alla normativa dei fondi UCITS 3 attualmente in vigore, non può investire su un unico underline, su un unico sottostante. Mentre per esempio l'ETC, che è un exchange traded commodities, per cui tratta linearmente un sottostante, specificatamente una delle commodities, può avere un'esposizione del 100% in un singolo commodities, come può essere l'oro, il petrolio o quant'altro. E quindi che cosa fa? Replica identicamente l'andamento del prezzo, $1,420 l'oncia? Assolutamente sì. E c'è a garanzia di questo l'oro fisico. Nel caso dell'oro c'è per esempio, nel caso di alcuni emittenti, c'è al caveau di una banca in Inghilterra, dove si possono vedere i lingotti segregati per questo tipo di investimento. Però mi preme sottolineare una cosa ancora, mi scuso se magari sono un po' scolastico. No, ma deve esserlo a Salvadanaio, ci mancherebbe, lo sa come funziona. Allora, quando parliamo di commodities, un mercato molto particolare. Particolare perché è molte volte sono sottostanti che hanno delle logiche particolari di andamento, e mercati dove sono negoziati sono magari differenti rispetto ai mercati dove normalmente si negoziano le azioni. Il prezzo dell'oro, per esempio, ha una relazione abbastanza diretta con l'andamento di tutto il mercato delle valute. Per cui, ma poi anche in situazioni di particolare, situazioni di tensioni che stiamo vivendo purtroppo, per esempio in Europa, sui paesi periferici e quant'altro, diventa l'oro, diventa il bene rifugio. Bene rifugio per definizione. È chiaro che certi andamenti, certe quotazioni possono essere drogate, tra virgolette, appunto, da situazioni particolari di tensione su altri mercati. Questo per arrivare a suggerire un po' di prudenza quando si guarda anche a questi strumenti di investimento. Poletto? Assolutamente, questo vale per le commodities, ma vale per qualsiasi prodotto finanziario, dove bisogna prima di tutto capire bene i prodotti, capire bene i sottostanti e dedicarci del tempo. Questo vuol dire, se uno non ha tempo, è meglio che non ci investa su queste cose, perché purtroppo la cosa che io quotidianamente vedo, parlando anche con gli investitori finali, che la gente dedica più tempo alla scelta della macchina, dell'option della macchina, e del telefonino, alla gestione dei propri soldi marginale. Lo diciamo spesso. No, poi c'è anche un'altra cosa. Lei prima faceva riferimento anche a tutte quelle dinamiche che si sono scatenate con questa crisi, che ha avuto una portata anche, come dire, delle modalità di rappresentarsi a noi piccoli risparmiatori, appunto, molto particolari, molto inedite. Abbiamo visto che anche, per esempio, il titolo di Stato, che è stato considerato sempre una cassaforte per gli investimenti dei piccoli risparmiatori, di quelli più prudenti, anche il titolo di Stato può subire, abbiamo visto quello che è successo negli ultimi mesi, delle oscillazioni molto forti, del tutto inaspettate, per cui figuriamoci quando invece andiamo a parlare di prodotti che hanno un'architettura e una struttura un po' più complessa, come quelli di cui stiamo parlando questa mattina. Questo non significa che in un portafoglio molto ampiamente diversificato si possa riservare anche una fetta del proprio portafoglio, per l'appunto, a strumenti come questi, e magari ottenere anche delle discrete soddisfazioni, no Poletto? Questo sicuramente, però l'altro esercizio che l'investitore deve fare è costruirsi un proprio orizzonte temporale di investimento, e anche farsi la domanda di cosa sono disposto io a perdere. Mm. perché a guadagnare sono tutti disposti. Certo. Però sono anche disposto a perdere qualcosa, certo. Comunque devo anche dire, io questi soldi non mi servono per i prossimi 2 anni, per cui posso allora prendermi un rischio maggiore su una quota parte del mio portafoglio, perché comunque per i prossimi 2 anni non mi servono. Ben diverso se io so che devo comprare la casa, la figlia si sposa e quant'altro, per cui nel giro dei prossimi 3 mesi ho bisogno di questi soldi, per cui non ha senso andare a fare un investimento che posso condizionare. Dove sta Poletto fuori dalla finestra a fare questa intervista? Sta scherzando. No, questo ringrazio Poletto per tutte queste raccomandazioni, perché siccome tra l'altro nell'ambito dei certificati dei quali vogliamo parlare questa mattina c'è anche la tipologia capitale protetto, bisogna capire bene in cosa consiste questa protezione, se è totale o se invece sul mercato si possono manifestare delle condizioni per cui in realtà non si riesce a proteggere un bel niente. Andiamo di nuovo a Paolo Dannegro. Unicredit, prima di fare l'esempio del certificato con il sottostante, la commodities, l'oro, che ha suscitato un po' di curiosità fra i nostri ascoltatori, ci spiega che cos'è la CEPI, l'associazione degli emittenti, sui certificati, che cosa fa e che tipo di tutela anche rappresenta per i piccoli investitori in questo segmento di mercato? Ma innanzitutto vorrei dire che noi in quanto Unicredit emittente di certificati siamo completamente allineati alle idee del dottor Poletto, con il quale ci confrontiamo regolarmente. Avete tra l'altro CEPI, una bella quota di mercato del settore del 30%, se non sbaglio. Assolutamente, assolutamente. Siamo uno dei principali emittenti su questo mercato, i principali attori su questo mercato. La CEPI nasce proprio per le esigenze che faceva riferimento il dottor Poletto, quindi un'esigenza di trasparenza, un'esigenza di comunicazione in maniera univoca agli investitori, quindi al cliente finale, che come ha ricordato bene il dottor Poletto, vorrei rimarcarlo anch'io, deve tra virgolette spaccarsi un po' la testa per cercare di capire il prodotto. Il prodotto in certi casi non è altro che il veicolo per accedere al mercato dopo aver avuto avere in testa un'idea di investimento. Se noi parlavamo di investimenti di medio periodo, noi un puro grafico ci mostra che negli ultimi 10 anni un grafico annuale dell'oro è sempre risultato positivo. Quindi sostanzialmente si può dedicare una parte del proprio portafoglio per accedere a questa materia prima, per inserire questa materia prima nel portafoglio. Per fare questo ci sono differenti veicoli. Abbiamo lei ha parlato di ETC, l'ascoltatore parlava di ETC, quindi parlava di fondi. Noi parliamo di certificati, quindi parliamo di prodotti cartolarizzati che un emittente in pacchetta quota su un mercato regolamentato, come può essere il mercato Sedex di borsa italiana, e li mette a disposizione degli investitori. Facendo un passo indietro, la CEPI, l'associazione degli emittenti di certificati, che scopi vuole raggiungere? Vuole raggiungere gli scopi di proporre linee guida per prodotti sempre più trasparenti, sempre più semplici da capire, e soprattutto ha raggruppato 4 macro categorie di questi prodotti, perché l'investitore vada ad identificare immediatamente di che tipologia di prodotto stiamo parlando, anche se possiamo trovare sul mercato i nomi più variegati per quanto riguarda questa tipologia di prodotti. Le 4 macro categorie sono la categoria a capitale protetto, e quindi prodotti che garantiscono la protezione del capitale. Elenchiamoli solo adesso dal negro, poi li spieghiamo perché devo andare a sentire suggerimenti per chi è in viaggio. La seconda categoria è capitale condizionatamente protetto, cioè protetto fino a che non si realizzi una condizione determinata di cosa. Prodotti a capitale non protetto e prodotti a leva finanziaria, che sono un pochino più rischiosi, quindi credo che sia anche una graduatoria di rischiosità quella che ha indicato lei, no? Sì, sì, possiamo dirla così. Però qualche volta la banca ci può proporre anche un certificato a capitale completamente protetto, qualcuno invece un po' più aggressivo, come per esempio può essere quello a leva. Ci sono 4 grandi macro categorie, come ci spiegava Paolo Dannegro di Unicredit poco fa. Allora partiamo con un esempio di un certificato a capitale protetto. Tra l'altro hanno un taglio minimo di investimento, Dannegro? Allora, i tagli minimi di investimento sono fatti proprio per investitori retail. Ogni certificato è dotato di un multiplo, quindi sostanzialmente il prezzo del certificato è molto più basso del prezzo dell'attività finanziaria sottostante. Quindi volevo fare una piccola precisazione: i certificati quotati sul mercato Sedex possono essere acquistati tramite qualsiasi intermediario, non è necessario essere clienti di una o di un'altra determinata banca che emette quel prodotto. Sono certificati quotati su Borsa Italiana e quindi acquistabili sostanzialmente come un'azione, è la stessa identica cosa. Per quanto riguarda i certificati che sono andati per la maggiore nel 2009, quindi capitale protetto, abbiamo una categoria che si chiama Equity Protection, quindi sostanzialmente io posso investire ad esempio su un'azione o posso investire su un certificato equity protection che quota su quell'azione. Il dottor Poletto prima ricordava una cosa molto importante: noi possiamo, la sola cosa che possiamo controllare in un investimento è la perdita massima che siamo disposti a sopportare. Non a caso le quattro categorie rappresentano e cercano di dare un'indicazione chiara di quanto metto a rischio il mio capitale. Capitale protetto, condizionatamente protetto, non protetto e leva finanziaria. Lei giustamente ricordava che è un ordine di rischiosità. Quanto sono disposto a perdere? Facciamo l'esempio equity protection, col capitale protetto. Con gli equity protection, io ad esempio posso andare a acquistare un equity protection su un'azione e ho al contempo una determinata protezione. Quindi poniamo un'azione X. Se l'azione fa in un'azione anno X, più 5%, il certificato andrà a replicarne la performance al rialzo. Benissimo. Non farà il 5%, farà il 4,98, farà il 5,02, sostanzialmente le piccole componenti, opzionali. Dobbiamo poi depurare i costi, non ce ne siamo ricordati, I costi sostanzialmente si riflettono nei costi di negoziazione che il cliente paga al proprio intermediario, non a noi, si esplicitano nei costi di spread, come ci possono essere su qualsiasi prodotto finanziario dove ci sia un book di negoziazione, denaro e lettera. E una cosa importante da ricordare è che questa tipologia di prodotti non paga i dividendi. Questi sono sostanzialmente le macro categorie, a differenza del sottostante. Se io vado a comprare un'azione o compro un equity protection, io so che non andrò a incassare i dividendi. Però l'equity protection appunto mi permette di replicare la performance al rialzo, quindi è pensato per investitori che hanno aspettative rialziste su un'azione o su un indice, ma vogliano allo stesso tempo proteggere una parte o in toto il capitale investito. Allegro, io tra l'altro sto già chiudendo la trasmissione, oggi è volata, ma il capitale protetto, abbiamo fatto l'esempio di certificato più semplice. Se invece il sottostante su cui è costruito il certificato fa in un anno meno 10, in che maniera proteggete appunto l'investimento del risparmiatore? L'investitore che acquista un equity protection sa prima dell'acquisto quanto minimo gli verrà restituito a scadenza. Un'azione X che quota 15, io compro un equity protection su quell'azione con protezione 13, se l'azione passa da 15 a 20 il certificato andrà a replicarne la performance al rialzo, se l'azione dovesse andare a 10 io alla scadenza del certificato so che come minimo incasserò 13, quindi la protezione. Io prima di affacciarmi all'investimento so già quanto massimo perdo e quindi quanto massimo sto rischiando. Ecco, e quindi comunque posso uscire in ogni momento dall'investimento, in quanto il prodotto è quotato sul mercato, ne è garantita la liquidità da una figura chiamata market maker, che è sempre presente nel book con un prezzo in denaro, un prezzo in lettere, quindi io posso sempre uscire dal mio investimento. Come ricordava il dottor Poletto, se devo comprare la casa alla figlia o al figlio, posso uscire dal mio investimento in ogni momento. Benissimo. Allora, Stefano da Reggio Emilia, io non so se riusciamo a rispondere alla sua domanda. Intanto ce la faccia velocemente, poi lancio la mia pillola previdenziale di questa mattina e poi vediamo. Stefano, buongiorno. Buongiorno, volevo dare la mia esperienza più che altro perché ho investito in un altro tipo di certificati, che sono quelli che danno una cedola garantita, diciamo annuale, cadenza temporale 2 anni, e comunque offrono dei rendimenti molto interessanti. È chiaro che bisogna avere un po' di tempo per starci sotto, però erano principalmente su Enel e Eni. Quindi e di conseguenza volevo un attimo avere l'opinione sul fattore di rischio, perché comunque se non si va al di sotto di uno strike, di una barriera, che in questo caso è molto bassa, pensavo fosse un ottimo investimento. Quindi allora Stefano, sì, aspetti lì, io intanto mando la nostra rubrica previdenziale, poi gli ultimi 30 secondi tenteremo miracolosamente di risponderle. INPS, per saperne di più. E allora fino alla fine di febbraio, forse inizio marzo, vi proporremo in collaborazione con l'INPS le pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Sta continuando a spiegarci il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. La parola di oggi, molto rapidamente, cessione del quinto della pensione. I pensionati possono contrarre con le banche o altri intermediari finanziari un prestito che poi potrà essere estinto in un periodo non superiore a 10 anni con la cessione di alcune quote della pensione fino ad un quinto del suo valore complessivo. È l'INPS che paga le rate del rimborso del prestito, trattenendole dalla pensione. Prima di chiedere un prestito ad una banca, il pensionato deve ottenere dall'INPS la comunicazione di cedibilità, in cui l'ente, dopo aver verificato le condizioni a tutela del pensionato, indica l'importo massimo della rata del prestito. La comunicazione va poi esibita alla banca con la quale si intende stipulare un contratto. Dal Negro, lei deve essere brava in 45 secondi, in 45, no, non ce li ho, ce ne ho 30 praticamente, di tradurmi la domanda di Stefano da Reggio Emilia e dargli, se se la sente, anche una risposta. Ma allora, la risposta è senz'altro positiva, nel senso che l'investitore, a quanto capito, parla di Express Certificates, quindi prodotti a capitale condizionatamente protetto, che prevedono il pagamento di una cedola annuale se l'indice di riferimento o l'azione, come parlava di Eni, fosse salita, quindi incasso un rendimento annuale e libero liquidità per affacciarmi a un nuovo investimento, mentre se fosse scesa il certificato sopravvive un ulteriore anno, un ulteriore periodo, per poi arrivare a una data di scadenza dove se l'indice o l'azione è salita io ricevo un'ulteriore cedola, quindi 8, dipende dal certificato, 7, 8, 9% il primo anno o il doppio il secondo. Alla scadenza, se è salito, incasso il capitale più le cedole, se è sceso ma non oltre un determinato livello, io proteggo il capitale. Quindi se Eni fosse scesa, la linea se Eni fosse scesa non lo sapremo mai. Allora io dico solamente proteggo il capitale per chi non ha capito niente dei certificati, che stia ancora lontano. Per chi invece ha capito almeno metà della trasmissione che abbiamo fatto questa mattina, è un buono strumento di investimento. Voleva dire qualcosa? Volevo ricordare, per chi volesse approfondire questa tipologia di prodotti, www.investimenti.unicredit.it, e mondo c'è anche, certificato. Anche sul sito di Borsa Italiana c'è tutto il vademecum del funzionamento del SEDEX. Grazie a Pietro Poletto, a Paolo Dal Negro. Salvadanaio torna domani.